Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, mercoledì di campionato con il seguente menù: Atalanta-Catania, Bari-Cagliari, Bologna-Livorno, Fiorentina-Sampdoria, Inter-Napoli, Lazio-Parma, Palermo-Roma, Siena-Chievo, Udinese-Milan, con il posticipo domani sera a Marassi tra Genoa e Juventus, che è oggettivamente il match clou, sarà il match clou di questa quinta giornata. Per individuare il campo principale di stasera chiedo aiuto con un abbraccio di bentornato al maestro Adalberto Bortolotti. Buongiorno Adalberto. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Suggerirei Firenze per Fiorentina-Sampdoria. A me intriga molto Inter-Napoli. Bene, spieghiamo perché. Ti spiego. Sì. Ho visto il Napoli giocare tratti di calcio molto interessanti, anche nell'ultima partita che poi l'Udinese è andata molto vicino a vincere con quel gol annullato di Natale. Però dei momenti di gioco del Napoli interessanti, perché mi fanno pensare che, e lo pensa anche De Laurentiis credo, che le potenzialità della squadra siano superiori ai punti sinora raccolti. E quindi siccome l'Inter è sempre un po' un mistero da scoprire strada facendo, è una partita che credo possa riservare molto interesse, fermo restando che la verifica di questa Sampdoria capolista sul campo di una squadra che sin qui è andata molto in altalena come la Fiorentina è molto interessante pure quella. Hai già messo 3 o 4 buoni argomenti in sommario. Cominciamo allora del Napoli hai già detto. Tra l'altro il Napoli ha avuto una partenza sprombattuto, la prima mezz'ora a Palermo nella partita inaugurale era stata splendida, autorevole, persino autoritaria, e poi invece la partita era girata storta. Storta molte volte, anche sì, nell'ultima appunto, ma anche a Genova, dove pure era andato in vantaggio, sembrava padrone del campo. Insomma, è una squadra che ha dei momenti di grande calcio, purtroppo non sorretti dalla necessaria continuità. Mi dispiacerebbe che Donadoni pagasse anche questa volta, pur avendo fatto sul piano tecnico un lavoro secondo me non disprezzabile. Certamente quello di stasera non può essere credo l'ultima chance o comunque un banco di prova definitivo, una trasferta sul campo dell'Inter, però è un test che ci sta. Poi la prossima partita il Napoli riceve il Siena e con tutte le insidie del caso, ma insomma potrebbe poi in ogni caso provare. Ma è vero che quello di stasera è un test interessante. Allora, tu hai introdotto per esempio un argomento della fragilità dell'impianto di gioco della nuova Inter. Dall'altra parte, se parliamo delle due favorite, è vero che Buffon è costantemente il migliore in campo, comunque nella scorsa settimana lo è stato sia col Bordeaux in Coppa che con il non irresistibile Livorno in campionato. A che punto sono le messe a punto di queste due squadre? Ma vedi, tu hai toccato un tasto secondo me molto interessante che a volte noi tendiamo a sottovalutare nelle analisi tattiche sofisticate, cioè che il portiere spesso fa la differenza. Cioè, l'anno scorso un Giulio Cesar strepitoso ha sicuramente avviato l'Inter verso la fuga decisiva, e quest'anno Buffon ha reso, a parte tutti gli altri importantissimi innesti, ha reso la Juventus quasi invulnerabile, perché io ho visto il Livorno giocando fra l'altro un calcio molto coraggioso, molto bello anche, certo, costruire non meno di 4 limpide palle gol, 3 delle quali io penso con un altro portiere si sarebbero trasformate in rete. Quindi il portiere è molto importante, e avrei ritrovato questo Buffon, che ripeto è stata una sorpresa, almeno per me, rivederlo a questi livelli, una piacevolissima sorpresa. Rende la Juventus, secondo me, sicuramente degna di altrettante chance di quelle che concediamo in genere all'Inter, perché io all'inizio del campionato avevo detto che la Juventus si era molto avvicinata, in effetti forse si è talmente avvicinata da essere sullo stesso gradino, perché mi pare una squadra che si sia completata moltissimo. L'Inter rispetto all'Inter degli anni scorsi ha una differenza che io non so se considerare un vantaggio o un limite, cioè l'Inter, diciamo targata Ibra, poteva vincere permettendosi di giocare male. Questa deve giocare decentemente per vincere, perché se non trova il gioco non trova neanche la risorsa per prendere la partita, ecco. Sì, negli anni scorsi il vantaggio sulla Roma era proprio quello, che sì, la Roma vinceva solo dando spettacolo, l'Inter anche giocando magari maluccio, ecco. Quest'anno l'Inter è costretta a darsi un gioco e non credo ci sia ancora riuscita del tutto, pur essendo su una buona strada, per carità. Certo, sì, a meno che Milito non vesta i panni di Ibra, non tanto come trascinatore, anche per ragioni di physique du rôle, se vogliamo, ma non li vesta come implacabile sfruttatore. In fondo domenica scorsa a Cagliari insomma il pari già andava stretto al Cagliari, sì, però sono bastate due disattenzioni, certo. E questo ha anche una capacità di trasformazione, Milito, di mi pare che la differenza tra i due, ferma restando che Ibrahimovic è un altro genere di giocatore, però la differenza tra i due è, mi sembra che Ibrahimovic complicava le cose semplici, soprattutto sotto porta, questo le semplifica, quelle difficili in un modo strepitoso, mi pare. È esattissimo, perché in effetti Milito è sicuramente e nettamente più goleador puro rispetto a Ibrahimovic. Mm-hmm. E quindi come capacità realizzativa, capacità di trasformazione, le sue stesse medie che sono strabilianti per un calcio italiano, no? Lo dimostrano. Però con Ibra potevi fare un certo gioco che non puoi fare con Milito. Milito chiaramente sfrutta l'occasione, ma la squadra deve un po' creargli le condizioni, mentre con Ibra palla avanti, lunga, alta, e poi pensaci tu, ecco. Questa, io credo, sul piano del gioco Milito non può sostituire quell'Ibrahimovic che faceva il terminale di tutti i lanci, certo, lunghi dalla difesa, che saltavano e azzeravano in pratica la costruzione a centrocampo. Milito finalizza con straordinaria abilità comunque una manovra, certo. Chiaramente a Cagliari poi ha anche preso una palla vagante che si è lui stesso conquistato e l'ha trasformata in gol, rovesciando un rapporto tecnico che sino a quel momento e forse anche dopo è stato, certo, favorevole al Cagliari. E sbalordendo anche per la facilità con cui poi conclude queste azioni, che poi semplicissime da concludere non sono. Dopo l'intervallo allarghiamo il raggio di visuale, non soltanto alla Sampdoria e magari a Genova, ma anche ad altre squadre, come per esempio il Bari, che mi sembra un approfondimento lo meriti. Scrive un ascoltatore: Giacomo, scusi la domanda, ma perché ora anche nell'infrasettimanale si attua il posticipo? Perché così ha deciso, a parte che già l'anno scorso c'era stato un esperimento, perché così prevede la spalmatura del contratto con le pay TV che mantengono il calcio italiano, quindi piaccia o non piaccia è inevitabile, e indietro è difficile, anzi è impossibile che si torni. Torniamo in collegamento con Adalberto Bortolotti e passiamo per esempio alle due genovesi. Il Genoa gioca domani, direi di cominciare dalla Sampdoria, non solo per ragioni di classifica, perché la Sampdoria aveva un telaio di gioco collaudato. Su questo telaio di Mazzarri come è intervenuto Del Neri? Per sono poche quattro giornate, ma insomma oggettivamente la Sampdoria, al di là dei risultati, gioca un calcio più frizzante adesso. Sì, io confesso la mia predilezione per Del Neri, che è un tecnico che seguo dal Chievo in poi, e mi pare sempre, tranne qualche sfortunata intrusione al vertice, sì, un tecnico dotato di una creatività di gioco straordinaria. Volevo rilevare un semplice dato statistico: l'anno scorso a questo punto l'Atalanta di Del Neri era seconda in classifica e adesso è ultima a 0 punti. La Sampdoria era in fondo alla classifica, nella parte bassa, e questa quest'anno in testa. Chiaramente le cose non dureranno così sino in fondo, ma sicuramente questo è un allenatore che sa tirare fuori il massimo da un materiale non sempre e tutto di primissima scelta. Fra l'altro non è uno di quelli che invochi grandi rinforzi, lavora con quello che trova e lavora bene. Al massimo aggiunge due stagioni formidabili. Al massimo aggiunge delle ali, no? Da aria al gioco. Il suo marchio di fabbrica sono gli esterni. Dal tempo di Eriberto, ora Luciano Manfredini, bravo, del Chievo, che a un certo punto erano i due più forti esterni d'Italia, sì, sì, è vero, vero. Nazionale, Eriberto non poteva, ci sarebbe andato anche lui, fosse stato italiano. E poi lui riesce a tirare fuori il massimo da questi esterni che fra l'altro sostituisce, anche alterna, nel senso che li spreme proprio in un'attività di avanti e indietro lungo le fasce martellante, e quindi ha bisogno di cambi. Questo mi pare il lato più nuovo di una Sampdoria che Mazzari aveva già impostato molto bene, perché ha fatto un lavoro importante. L'altro fattore è il fattore C, nel senso di Cassano, perché un Cassano che giochi così è un lusso. Non credo ci sia nel campionato un giocatore altrettanto geniale e continuo come il Cassano di adesso. Cioè, non c'è nessun dubbio. Ti ho ascoltato. Cioè, chiunque li gioca vicino diventa goleador ad altissimo livello e nel frattempo fa gol anche lui. Non ho smesso di seguirti, intendiamoci, ma avendo davanti agli occhi su uno schermo i gol del Barcellona di ieri sera in campionato a Santander e rivedendo per la milionesima volta che cosa sta combinando Messi da quelle parti, insomma, un minimo di distrazione temporanea me la devi consentire. Comunque deve fare un capolavoro Maradona per essere quinto in un girone sudamericano con una squadra che ha Messi e un pugno di altri fuori classe sparsi per il mondo. È verissimo, e tra i capolavori c'è lasciare in tribuna Milito, non convocare Samuel, no? Datolo in campo e altre ancora. Comunque il Barça ha vinto 4-1 anche ieri sera fuori casa, era già 3-0 dopo mezz'ora. Ibrahimovic ha segnato il primo gol di testa, sia pure visto adesso con una un po' sporcata alla spalla di un avversario, e poi si è fatto male una caviglia e potrebbe saltare un paio di partite o forse anche tre. Messi straordinario come sempre, va bene. Il Genoa, a differenza della Samp, mi pare sia proprio un discorso opposto, nel senso che non solo è rimasto il tecnico, ma ha inserito dentro un modulo già collaudato delle altre pedine che certamente qualitativamente non valgono perlomeno Motta e Milito. Genoa è un'altra contraddizione apparente, cioè ha ceduto i due uomini più forti che aveva e che poi si sono puntualmente confermati e si stanno confermando come giocatori di altissimo livello, quindi doveva tra virgolette fare un passo indietro, invece a prescindere dall'ultima battuta d'arresto che ci sta, che è stata sicuramente anche agevolata dal turnover che va addebitata o accreditata anche a un Chievo in un momento molto felice. Indipendentemente da tutto questo, il Genoa ha mantenuto le caratteristiche dello scorso anno, almeno mantenuto, cioè almeno allo stesso livello. Certo. Quindi anche qui siamo di fronte a un tecnico davanti al quale occorre togliersi il cappello. Gasperini sta facendo un grande lavoro. Sai cosa mi viene in mente con Gasperini? Che appunto gli cambiano e un po' è costretto a cambiare lui, o comunque innesta metà squadra riversa e ricomincia come nulla fosse, non pretende alibi, eccetera. Io sento un altro allenatore cui contratto forse più oneroso del suo continuare a dire che con 4-5 pedine nuove è impossibile giudicarlo, non si può avere gioco e non. Cioè, mi suona strano questo. Solo a te. Non solo a me, Vabbè. Senti, ci sono una serie di tifosi bolognesi che mi stanno chiedendo una tua opinione sul Bologna attuale, anche in rapporto a certe cattive frequentazioni della famiglia Menarini. La metto così per tradurre in maniera radiofonica un paio di messaggi non proprio teneri a questo proposito. Ma guarda, il Bologna è una società sfortunata, diciamo così, perché fra pochi giorni compie 100 anni, sta celebrando volonterosamente questo appuntamento storico, anche con pubblicazioni di un certo pregio che fanno tanta nostalgia, perché è una squadra con un grande passato, ma ha attraversato una delle sue estati più tribolate, che a un certo punto era stato venduto a un petroliere albanese che davanti alla porta del notaio ha voltato le spalle ed è scomparso. Quindi anche la costruzione della squadra è risultata condizionata, ecco. Dopodiché la conferma di Papadopoulo in virtù della salvezza raggiunta lo scorso campionato è stato anche un atto di riconoscenza, non so quanto convinto, e a volte la riconoscenza nel calcio non è un valore positivo, rimane sul piano morale. Papadopoulo ha delle sue visioni di gioco e di calcio per cui non collimano per esempio con le mie, e avere una squadra che si è dotata solo di chili e centimetri a scapito del talento, specie dove si costruisce gioco, la rende particolarmente povera e vulnerabile nelle partite che deve fare. Bologna ha cominciato discretamente con due partite in cui ha fatto controgioco molto bene. Poi quando ha dovuto battere il Chievo ha preso un 2-0 a domicilio particolarmente doloroso. Questo mi fa temere per la partita di questa sera, perché il Livorno è un avversario che assomiglia in un certo senso al Chievo. Toccando ferro per la mia conclamata fede rossoblu, spero che l'esito sia diverso. Del Bologna devo dire, non rendono felici i vecchi sostenitori queste frequentazioni che risultano poi particolarmente incomprensibili, perché a certi personaggi Bologna aveva addebitato le proprie sfortune, cui una retrocessione legata strettamente a Calciopoli. Oggettivo, soddisfatti o comunque rimborsati i tifosi bolognesi. Io vorrei, dato che il tempo è volato, vorrei chiudere per oggi almeno con il Bari, perché mi sembra che il Bari, così anche lì su quattro giornate sono poche, però a occhio, sta certamente Ventura sfruttando, nel senso migliore del termine, anche l'eccellente lavoro di Conte dello scorso anno, e fin qui credo che Ventura stesso sia d'accordo, insomma, sia disposto ad ammetterlo. E dato che tu parlavi delle difficoltà del Bologna quando è ora di costruire gioco, mi sembra che il Bari sia esattamente l'opposto, cioè che abbia invece un sacco di inventiva da questo punto di vista. Ma il Bari ha seguito una strada completamente diversa, ha puntato su un gioco che lo rende particolarmente brillante quando ha l'iniziativa, che per una squadra destinata nelle previsioni alle fasce basse della classifica è abbastanza singolare, ma molto remunerativo. Io l'ho visto e mi ha conquistato nella prima partita a Milano con l'Inter, come li mandava a vuoto, pronta testa tattica è vero. Giocando per vincere sempre, anche quando il pareggio poteva essere una conquista straordinaria. La seconda partita l'ho pure vista in casa con il Bologna, ma si è giocato su una specie di risaia che non consentiva nulla, quindi è stato uno 0-0 senza un tiro in porta, credo, e che non fa testo. Però immediatamente, quando ha ritrovato un fondo apprezzabile, è ripartito, ed evidentemente hanno anche un po' aggiustato il campo, se nell'ultima recita casalinga ha goleato l'Atalanta, pagando forse un debito di riconoscenza a Conte, perché così le porte di un ritorno in Serie A. Gli ha trovato squadra. Alberto, questo tempo è volato, grosso modo siamo arrivati a mezza Serie A, l'altra mezza, cioè il Milan, l'Udinese, le due romane, il Palermo, eccetera, ce la teniamo per un'occasione il più ravvicinata possibile. Perfetto. Grazie allora ad Alberto Bortolotti. Torniamo in onda con notizie e interventi vostri scritti e parlati. Si diceva, per esempio, proprio ad Alberto Bortolotti pochi minuti fa ci stava dicendo la sua opinione sulle quelle che io ho chiamato cattive frequentazioni della famiglia Menarini, e per una combinazione quasi astrale nello stesso momento l'ANSA batteva il commento di Claudio Sabatini, che è il patron della Virtus Pallacanestro, che è interessato a entrare nella proprietà del Bologna, se non addirittura a rilevarla del tutto. Sabatini ha confermato il proprio interesse per il Bologna e ha detto, a domanda su Moggi, ha precisato: la mia è una risposta da tifoso, perché non mi permetterei mai di commentare le scelte di un proprietario. Ma se l'alternativa fosse un Bologna vincente, capirei. Se invece un Bologna mediocre in Serie B, allora meglio Moggi della Serie B. Ho esperienza di cosa pensano i tifosi, tutto va bene solo se alla fine vinci. Bob ha chiamato da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sì, stamane ho letto sulla Gazzetta dello Sport che la Sampdoria, che è prima in classifica, sarebbe felice alla fine dell'anno di essere in zona Champions League. Il Genoa idem, ma la Fiorentina idem. In pratica, per lo scudetto sembra che ci siano solo Juve e Inter giallo. Ora il Milan fa finta di voler vincere, però probabilmente non può. La mia domanda è: non pensi che fra un paio d'anni le televisioni chiederanno loro stessi i playoff, perché il campionato è già deciso dopo 4 giornate? Ma io credo, Bob, che quest'anno il campionato fosse deciso anche prima di queste 4 giornate, deciso non su chi lo vince ma su chi se lo gioca, che sono quelle due. In Spagna accade in misura ancora maggiore che da noi, e non mi pare che abbiano chiesto i playoff. In Inghilterra l'alternanza è minima. Io continuo a sostenere che la formula ideale non è quella dei playoff, ma è questa, purché ci sia purché chi governa il calcio trovi il modo di introdurre il principio dell'alternanza, no, non introdurlo in senso forzoso evidentemente, ma introdurlo nei fatti, come si è automaticamente introdotto in Germania, per esempio. Se tu controlli seriamente i bilanci, se tu dividi in maniera più equa i diritti televisivi, e se tu fai una politica di rigore da tutti i punti di vista, compresi i vivai, comprese tutte queste cose che poi sono conseguenze di pulizia di bilanci e di serie economia applicata al calcio, automaticamente il principio di alternanza si attua, per cui in Spagna, in Germania la scorsa stagione ha vinto il Wolfsburg, adesso il Wolfsburg è leggermente in crisi, c'è in testa il Bayer Leverkusen, subito dietro ce n'è un'altra che l'altro anno non figurava tra le favorite, poi arriva il solito Bayern, d'accordo, ma negli ultimi anni il campionato l'ha sempre vinto a squadre diverse e c'è grande equilibrio fino alla fine. Questo porta interesse, non i playoff. Dal mio punto di vista, intendiamoci. Girardino si è beccato 2 giornate dalla, anche questa è una notizia appena battuta dall'agenzia, 2 giornate dall'UEFA per l'espulsione in Lione Fiorentina. Quindi evidentemente la cantonata dell'arbitro era di quelle serie, perché per non limitarsi alla giornata di squalifica da prassi, ma per arrivare a 2, significa che ha colto un gesto che credo possa essere definito di particolare violenza. In genere questa è la motivazione per 2 o 3 giornate di squalifica, e quindi davvero una cantonata da parte dell'arbitro che ha diretto Lione Fiorentina. Pierpaolo ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, salve. Dica. Volevo intervenire su un parallelo che avevo sentito fare prima tra l'Inter di Ibrahimovic e l'Inter di Milito, no? E ho sentito spesso riferire come l'Inter di Ibrahimovic aveva la possibilità di giocare anche male, perché Ibrahimovic poi era un giocatore che sa risolvere le partite da solo. Di aggiungere che però tante volte è stato poi Ibrahimovic a condannare l'Inter a giocare poco bene, perché è un giocatore che dialoga male con il suo reparto e è un giocatore che molte volte preferisce la palla sui piedi rispetto magari agli inserimenti, eccetera. Oggi la soluzione di Milito secondo me è più completa, soprattutto per la presenza di un trequartista come Snyder, perché innanzitutto dialogare bene con il suo compagno di reparto, lo vedo fare già con Eto'o. Non segna solo quando l'Inter gioca bene, perché domenica l'Inter non ha giocato bene, pure Milito insomma già ha fatto 2 gol, e poi che abbia più soluzioni corali, più che nei piedi, più che la giocata estemporanea, abbia molte soluzioni offensive, ecco, da questo punto di vista. Ascolto la sua risposta per radio. Ma per Paolo, a me sembra che da quando Ibrahimovic è andato via sia diventato un brocco nella percezione, no, degli interisti in particolare. Io vedo giocare il Barcellona ieri, sabato, certamente a San Siro ha fatto una pessima partita, ma come Eto'o d'altra parte, come altri. Io non credo che Ibrahimovic, andando via all'Inter e arrivando a Barcellona, abbia disimparato a giocare a calcio. Manterrà le sue caratteristiche, che sono certamente non quelle di un finalizzatore, non quelle di un... Lui è un numero 10 che ha il fisico ha quel fisico incredibile e quindi ha caratteristiche complesse, articolate, insomma. però con dei piedi che per avere il 46 o il 47 di scarpe, dei piedi in una morbidezza incredibile. Il gol di sabato sera, un tocco all'esterno col pallone praticamente fermo e col contagiri perché arrivasse in porta, ma non in maniera troppo violente. Insomma, a me rimane così l'etichetta di un artista con un fisico dell'argumento, ecco. Ma credo che il Barcellona stia trovando, e a maggior ragione troverà col tempo, il modo di farsene qualcosa di uno come Ibrahimovic, insomma. Giovanni da Torino, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Ascolti, una curiosità, situazione squalifica. Allora, abbiamo visto nella terza giornata di campionato, se non sbaglio, nella seconda, l'espulsione di Criscito. Si è beccato due giornate, se non sbaglio, sì. Vero? Sì. Ecco, due giornate per aver mandato col braccio, che comunque ne vediamo 100 di quegli episodi. Col braccio e con la bocca anche. Col braccio e con la bocca, sì. Come ha fatto lo stesso, mi scusi se lo nomino, Mourinho. Però non capisco perché a Mourinho gli hanno dato una giornata solo, in quanto lui è appunto un allenatore, una persona che comunque è nella bocca di tutti, è un... come dire, un esempio, perché comunque è un allenatore, uno che prende tanti soldi. Se uno che prende tanti soldi deve essere un esempio, cade la linea, Giovanni. Io l'avviso. In che senso, mi scusi? No, cioè nel senso che comunque è più sulla bocca di tutti Mourinho che un giocatore come Criscito, come tutti gli altri. In quel caso lì sto dicendo, perché se ne parla tantissimo. Cioè sta parlando, sta dicendo che più il pulpito è alto e più il cattivo esempio, è vero. Io le dirò che il parallelo tra Criscito e Mourinho a proposito di intemperanze ci può stare, ma mi sembra un po' tirato. Lo farei tra Criscito e Lucarelli il parallelo, invece, perché Lucarelli è stato ben più pesante sabato sera nei confronti di Pierpaoli a Torino, ma l'ha fatta franca, mentre quell'altro si è beccato due giornate. Mourinho, il parallelo di Mourinho lo girerei su Orsato, perché Orsato in compenso è stato bravissimo a sentire questo insulto a distanza, e l'ha sentito attraverso il microfono del quarto uomo, ma non ha sentito i cori razzisti nei confronti di Balotelli e Eto'o, e questo sinceramente mi sembra più grave. Su chi poi debba comportarsi meglio, ma insomma è una classifica che lascia il tempo che trova, nel senso che io credo che tutti questi attori dovrebbero comunque trovare il modo di comportarsi bene. Poi è ovvio che chi è a bordo campo e ha qualche anno in più dovrebbe avere anche un po' più di senso di responsabilità, questo è abbastanza vero. Ancora un torinese, Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, buongiorno. Grazie per la possibilità di intervenire. Volevo con l'occasione, se mi passa un secondo, salutare anche il dottor Bortolotti, grande professionista che stimo e che dovrebbe raccogliere proseliti, perché è una persona che racconta di calcio con tantissima serenità. E competenza. E competenza, bravo. Detto questo, mi vorrei così congiungere con il mio concittadino precedente, parlando appunto di Mourinho, non me ne voglia, io sono juventino, di fatto però con molta anche serenità vorrei dire che si parla tanto di violenza sugli spalti, violenza fuori dagli stadi, è da anni che parliamo sempre delle stesse cose, e mi colpisce il fatto che molti dicano non bisogna dar seguito, non bisogna neanche prenderle in esame queste cose, non bisogna dargli pubblicità. Io mi chiedo perché non si comincia a fare lo stesso con Mourinho, ma le dirò di più, la cosa che più mi ha infastidito della faccenda di Cagliari, dell'espulsione che trovo giustissima, perché insomma ha gesticolato come neanche nei campi di periferia a momenti si fa, è l'atteggiamento di Moratti, che io fossi stato il presidente quantomeno non avrei commentato in pubblico quello che lui ha fatto. Lui è arrivato a condannare la giornata, attenzione, non 10 giornate, la giornata di squalifica, che trovo sacrosanta, perché se l'arbitro dalle immagini televisive si è visto chiaramente Alberto. Sì, vero, le abbiamo viste, Alberto, siamo a un minuto e mezzo, le abbiamo viste, io condivido questo, le intemperanze è un problema di educazione. Mourinho ne conosce poca, ne ha portata pochissima in Italia di educazione sportiva, anzi sta contribuendo a peggiorarla, e sinceramente mi domando il perché, perché capisco che se, quando uno si è costruito un personaggio poi lo debba continuare a recitare, ma secondo me dovrebbero esserci più limiti, e sono d'accordo con lei. Volevo chiudere questa terza parte di programma, prima del traffico, con Questa mail arrivata è firmata Sergio Dalai, che domanda: mi sa spiegare la differenza tra un razzista e una persona che tiene un comportamento da razzista? Continuo a sentire distinguo pelosi sul fatto che chi offende Balotelli o Eto'o tiene sì un comportamento razzista, ma nel fondo non lo è. Secondo me non sta né in cielo né in terra, e non posso che condividere. Poi fa un'altra osservazione che invece non c'entra con questo, e dice: un famoso allenatore di basket americano, Phil Jackson, sostiene che il lavoro dell'allenatore finisce quando l'arbitro fischia l'inizio dell'incontro. Chiaro che c'è di mezzo anche il gusto del paradosso e che la pallacanestro non è il calcio, ma lei pensa che sia così distante dalla verità? Non lo penso assolutamente, perché io ho sempre pensato che più un allenatore è composto in panchina e più è, oltre che educato, vuol dire che ha lavorato bene in settimana, ha preparato bene la partita. Questo sosteneva un maestro come Lidholm, questo ha sempre sostenuto Berzot, così si comportano i Capello, gli Ancelotti, direi anche i Lippi, le persone che si sanno comportare in campo, altre meno. Torniamo in onda con il ripasso consueto, 23 settembre, affidato a Nicola Filipponi. Sembra ieri. 23 settembre 1952. Rocky Marciano si laurea a 29 anni campione mondiale dei pesi massimi, sconfiggendo a Filadelfia il detentore del titolo Jersey Joe Walcott. Dopo aver subito per tutto l'incontro ed essere finito anche al tappeto, al 13° round Marciano sferra un gancio destro dirompente che manda KO Walcott. L'italo-americano conserverà la corona per 4 anni, fino al ritiro, riuscendo nell'impresa di chiudere la carriera professionistica imbattuto, con un ruolino da fenomeno assoluto. 49 match vinti su 49 disputati, di cui 43 per KO. Da Fabrizio, le dichiarazioni di Allegri a proposito di Cori di domenica le giudico in maniera pessima. Allegri, che stimo molto come tecnico e come persona, stavolta mi ha seriamente deluso. Ha detto in pratica che non c'era nulla di razzista, che questi Cori erano semplicemente reazioni a comportamenti non sportivi dei due giocatori dell'Inter in questione, combinazione tutte e due di colore, e mi ha profondamente deluso. Credo che il suo maestro Galeone sarà rimasto deluso quanto me da questa minimizzazione di Allegri. Sentiamo qualche voce di vigilia, perché torno a dire che tra poche ore si gioca la quinta di campionato. Sentiamo per esempio un rappresentante della capolista, Palombo. Noi dovremmo essere bravi a magari a sfruttare le loro debolezze, che secondo me come squadra ne hanno poche. Adesso insomma avranno fatto magari una partenza così così, però comunque è una signora squadra. Noi dobbiamo andare là e giocarci la partita. Se poi saranno più bravi di noi, gli stringeremo la mano a fine partita. Palombo, centrocampista di lotta e di governo della Sampdoria. Poi più tardi sentiamo Leonardo, adesso diamo spazio a Nicola, chiamato da Belluno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Rilancio sull'argomento playoff. Sì. Come risposta all'atteggiamento delle grandi negli ultimi 20 anni. Hanno dettato legge, hanno allungato il campionato a dismisura e hanno tolto alle squadre medie, stile Verona, Sampdoria, e i loro tifosi la possibilità di sognare di giocarsi un giorno lo scudetto. Allora mi chiedo, perché invece lasciamo perdere l'interesse, non è un argomento interessante secondo me, ma perché una squadra come il Genoa l'anno scorso non poteva pensare di vincere lo scudetto? Non lo so, cosa? Nicola. Io sono nostalgico delle 16 squadre in Serie A e queste cose qui. Se la domanda a me, la risposta è molto semplice, perché ci sono già le coppe che sono dei playoff. Il campionato è un'altra cosa, il campionato è una corsa a tappe. Se il Genoa è, o la Sampdoria o il Verona di una volta o il Torino o la Lazio, il Cagliari, ci mette a chi le pare, vincono un campionato, perché alla fine delle, certo, 30 giornate di campionato sarebbe molto ma molto ma molto meglio finissimo d'accordo, o delle 34 o delle 38 sono davanti a tutte in classifica, è perfetto. Se lo devono vincere attraverso quella lotteria finale che azzera i meriti di una corsa lunga 9 mesi, io sinceramente non capisco perché non vedrei l'assegnazione di un Giro d'Italia o di un Tour con una kermesse di volate tra i primi 5, i primi 4, i primi 8 classificati. Secondo me i playoff non hanno senso nel calcio. Poi ciascuno la pesa come gli pare, non ho nessuna intenzione di imporre il mio punto di vista, però è questo e le garantisco che non può cambiare. Leonardo, sulla vigilia, perché altra partita che diciamo di sottoclou serale, no? Vista la situazione di classifica, però che non è affatto da trascurare, è la trasferta del Milan a Udine. Sentiamo. Credo che Udinese ha dei ruoli ibridi. Sono giocatori che sembrano una cosa e fanno un'altra, e quello è una cosa veramente difficile. Dipende dalla situazione, ma anche come giocano, perché tu pensi e anche schieri nella tua testa l'Udinese in un certo modo e giocano in un altro, e quello è sicuramente da pensare. Vero, perché l'Udinese è effettivamente una squadra imprevedibile, anche nel male, non soltanto nel bene, però lo è oggettivamente. Oh, a proposito di a volte ritornano, sentite questa frase di Papa Resta, famoso ex al momento arbitro, ma in attesa di reintegro. Dunque, stamane ha fatto le visite mediche all'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI e all'Acqua Acetosa, è pronto a fare il suo ritorno sui campi di gioco in forza di una sentenza del TAR del Lazio, contro cui però l'AIA, e cioè la Federazione Arbitrale, ha fatto appello. Papa Resta ha detto: ho fatto le visite mediche che sono propedeutiche all'attività agonistica, adesso aspetto solo di essere chiamato dall'AIA e sono già disponibile e pronto a tornare in campo, visto che le visite hanno dato esiti positivi. Io mi auguro di tornare già da domani, dato che c'è il raduno degli arbitri, e spero nella massima serenità che il designatore Collina mi chiami. Andrea da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno signor Galanzini. Dica. Io chiamavo per una curiosità, che io sono juventino, però stavo riflettendo che negli ultimi 10 anni l'espressione della vincente del campionato è stata o a strisce o romana, no? E, però non è mai stata l'espressione del miglior calcio, perché le varie squadre sono succedute che hanno dato un calcio bello, spettacolare, non hanno mai vinto. E sinceramente mi è venuto a dire: ma come mai il calcio più bello non vince? C'era questo un po' il mio quesito. Beh, insomma, il calcio non vince, non lo so, a volte succede, a volte no, non mi sembra una regola o una costante. Io mi ricordo il campionato della Roma, per esempio, quando vinse quel campionato della Roma giocava un signor calcio. Ricordo altri anni in cui magari il calcio di chi ha vinto non è stato di un livello stellare, ma insomma dopo 38, perché purtroppo siamo a 20 squadre, ma dopo 38 partite è un po' difficile che vinca una squadra che gioca davvero così male. Poi tra il bene e il male bisogna sempre intendersi. Mi vengono più facili i paragoni con l'Inghilterra. In Inghilterra il Chelsea è quello che prima di Ancelotti, adesso poi mi sembra che già si sia un'evoluzione, ma poi si vedrà nel tempo. Ma insomma, il Chelsea giocava il calcio più speculativo, il calcio meno spettacolare nelle ultime 2-3 stagioni. Poi poteva vincere o non vincere, indubbiamente il Manchester era più divertente, l'Arsenal era più classico addirittura. Poi chi vince vince, non sempre tutto coincide, come nel caso del Barcellona invece, dove per esempio lo scorso anno vince e oltre a vincere vince, ma gioca anche nettamente meglio, anzi la superiorità estetica è persino superiore a quella poi concreta di punti. Eppure anche quel Barcellona nella semifinale col Chelsea, se non gli va, ma non di lusso, di extra lusso, il Barcellona poi la Coppa non la vince. Quindi quelli sono già i playoff, appunto, dicevo, ricollegandomi al discorso di prima. Il campionato è un'altra cosa, è una corsa a tappe. La vigilia di Inter-Napoli, nelle parole di Cambiasso. C'è un Napoli che sicuramente, guardando la classifica, non si corrisponde la sua squadra con la classifica che ha, e che vorrà rifarsi assolutamente facendo una grande gara contro l'Inter, perché è normale che le motivazioni arrivano. Noi dovremmo stare all'altezza dell'Inter e sappiamo che non possiamo affrontarla col piede sbagliato, perché può essere una situazione controproducente. Quindi miglior atteggiamento possibile a cercare di fare 3 punti in casa. A domani, con un grazie in regia a Fabio Cantadori e a Flavio Suardi in redazione. Giornale Radio.